e che su quello che è su quella che è la tendenza anticipatrice quasi sempre, no? Che arriva dalla Big Apple, potrà dirci molto. Insomma, l'agente provocatore di questa domenica è Giorgio Guidotti, responsabile della comunicazione internazionale di Max Mara. Cominciamo col far arrabbiare subito le nostre ascoltatrici. Quando vanno in ufficio si vestono meglio le italiane o le newyorkesi? Ma io credo sinceramente le newyorkesi. Per le donne newyorkesi l'ufficio è un momento anche di rappresentazione. Cioè la donna newyorkese vuole stare comoda nella trasferta, diciamo. La donna newyorkese è la donna che, come abbiamo visto mille volte nei film, mette le scarpe da ginnastica, certo, per andare in ufficio, poi sale su un tacco 12 in ufficio, e questo secondo me è anche positivo. Cioè il sinonimo comodo, la parola comodo, non è necessariamente positiva, a mio parere. Una donna in ufficio, sul lavoro, che sia un ufficio, che sia qualsiasi altra cosa, deve essere a suo agio, ma deve essere anche bella, seducente, femminile. Ecco, ma secondo te perché in ufficio la newyorkese mette il tacco 8-12? Perché si legge spesso anche nei romanzi, no? Tu arrivi, ti cambi le sneakers e metti il tacco 12. Che significa questo gesto per la donna che magari è un amministratore delegato o anche un assistente, però lo fanno tutte? Perché? Io credo perché la donna vuole sentirsi bella e a suo agio anche nel posto di lavoro. Sì. Il posto di lavoro è alla fine è come uno stage, cioè sia che tu voglia fare carriera, che tu non voglia fare carriera, non devi lasciarti andare. Quindi il tacco, come il trucco, come il parrucchiere, no? La donna newyorkese, e con questo non voglio assolutamente sminuire la donna italiana, che è bellissima sul posto di lavoro, soprattutto nelle aziende di moda, vediamo sì, beh, certo, delle donne a Milano in questa settimana della moda vediamo delle donne che sembrano uscite dalle riviste patinate. Senti Guidotti, ma dagli anni 80 in poi mica è cambiato molto. Io mi ricordo che quando ho cominciato a entrare nella redazione del giornale, cominciai a mettere le prime giacche, i primi tailleur pantalone, e lì siamo rimasti al tailleur pantalone. Guarda Hillary Clinton, guarda Angela Merkel, hanno sempre questa divisa, la giacca colorata e un pantalone comodissimo, elegante. Com'è che siamo rimasti lì? Ma io credo che il blazer, la giacca, è sicuramente molto pratica. Il blazer con pantalone o con la gonna, o a mio parere molto, molto donante anche con un abito, il blazer diventa anche un modo per poter mettere il telefonino in tasca, di poter di contenere delle cose senza dover... E poi diciamo la verità, la giacca sfina sui fianchi, diciamola tutta. Anche. Poi copre. Le giacche oggi non sono il blazer quadrato che non segna le forme. Oggi ci sono dei blazer sartoriali bellissimi che segnano, che pur avendo un taglio maschile sono in realtà blazer femminili, che sono molto donanti, anche colorati, non è, come dici tu, la signora Merkel o la Hillary Clinton, non deve essere necessariamente una giacca gessata, una giacca grigia. No, infatti il colore, pastello, il colore aiuta molto, certo, no? Dà anche brillantezza al viso, soprattutto dopo una certa età. Senti, Giorgio, quali sono i tre errori più comuni che si possono fare quando ci si veste per andare in ufficio? Io credo che gli errori sono sempre l'esagerare nell'essere troppo sexy. Secondo me questo è un errore ed è una mancanza di buon gusto. L'esagerare nell'essere troppo comoda, perché a volte il troppo comodo rasenta, sì, la sciatteria. Ti metti quasi in tuta e scarpe da ginnastica, no, come stare a casa. Per me è inaccettabile, almeno nei miei uffici no. E un altro errore può essere quello di essere troppo seria. A volte esagerare nello stereotipo della donna manager non mi piace. Cioè una donna deve rimanere donna anche in ufficio, anche se si mette un blazer di taglio maschile. Ecco, l'ultima cosa che volevo chiederti è Siamo su Radio 24, come non parlare del Made in Italy in questo momento? Quali sono i mercati che nella tua sensazione di responsabile internazionale della comunicazione Max Mara daranno più soddisfazioni alla nostra moda, alla moda italiana? Ma in questi momenti di grande incertezza economica, per fortuna la moda italiana gode di un enorme rispetto e di grandissima stima da parte di tutti i mercati internazionali. Per quanto mi riguarda, posso dire che ancora i mercati asiatici sono ancora molto recettivi, cioè la Cina, la Corea, Singapore, sono tutti i mercati dove il prodotto Made in Italy è ancora molto molto forte. Non dimentichiamo anche i flussi di turismo. Il turismo permette a volte alle città italiane o alle città europee di tenere in alto i consumi, esatto. Certo, di compensare magari il rallentamento del consumo locale. E noi speriamo che tengano tutti consumo interno e consumo dei flussi turistici. Certo. Grazie a Giorgio Guidotti, il nostro agente provocatore, e ricordatevi i consigli che vi ha dato, perché è veramente un esperto del settore. Grazie e buona domenica. Ciao, grazie a te. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno, e come sempre nel nostro secondo blocco abbiamo una ospite graditissima. Sapete che questa domenica ci consentiamo il lusso di parlare dei piccoli e grandi lussi che fanno bene alla nostra giornata, alla nostra settimana, e anche di parlare un po' di come ci si sente quando compriamo un abito, quando ci mettiamo una giacca nuova. Come ci si sente quando si hanno persino dei dubbi su come ci si veste in ufficio. Un po' il nostro fil rouge della puntata, e abbiamo una interlocutrice che di sicuro potrà darci molti e utilissimi consigli. Si chiama Nicoletta Polla Mattiotta, è la direttrice di How to Spend It, il mensile di lusso e lifestyle del Sole 24 Ore. È lei la nostra Sunday Girl. Buona domenica Nicoletta, eccoci. Grazie. Ma, allora, la direttrice di un mensile che si occupa di moda, di lusso, eccetera, nel nostro immaginario collettivo è un po' come la Meryl Streep del Diavolo Veste Prada, intanto cattivissima, su tacchi altissimi e sempre con degli abiti pazzeschi, inappuntabili, no? Nel film lei si cambiava anche più volte. E il tuo look di ufficio è così? Maria, mi vedi? Peccato che non ci possano vedere gli ascoltatori. Non è detto, ci saranno però dei tweet con le foto. No, niente di più distante. E ne approfitto per dire che sono in una trasmissione che si chiama Nessuno è perfetta, e quindi rivendico l'imperfezione intanto come caratteristica femminile e come meravigliosa caratteristica femminile. Io ho il piacere, davvero uso questa espressione, il piacere di dirigere una testata che si occupa di lusso, ma credo che il primo lusso sia proprio riconoscersi e avere quel grado di consapevolezza che ti consente di essere te stesso, con la moda, non a prescindere dalla moda, ma usare la moda per raccontarti. C'è un po' lo stress, ne abbiamo parlato di stress la settimana scorsa, ma torniamo a parlarne. Lo stress, soprattutto per le giovani donne, che talvolta messe a confronto con l'immagine che la moda manda, bellissime, magrissime, con abiti dai prezzi inarrivabili, si sentono schiacciate. In questo caso, il raggiungimento del sano equilibrio, cioè piacersi, stare bene in un vestito che si compra, ma non vivere la frustrazione di non essere come quelle lì, come le giovani Kate Moss che si stanno avvicendando, come si fa? Guarda, io credo che intanto si fa mandando con i giornali che noi facciamo anche dei messaggi più rassicuranti. A me piace dire che Autospendit è un posto dove si può stare comodi, dove ci si può accomodare, proprio come una poltrona, e dove ci si può riconoscere. Troppo spesso quando ci si avvicina alla moda e a mondi bellissimi, perché sono oggettivamente bellissimi, il senso che scatta è l'inadeguatezza. Vedo un abito meraviglioso, una modella meravigliosa, un trucco perfetto e dico, beh, io non potrò mai essere come lei. Così. Invece no, l'idea credo che dobbiamo trasmettere proprio con il lavoro che facciamo è quello che puoi essere quello che vuoi attraverso gli strumenti che la moda, la bellezza e tutto quello che è il lusso di sentirsi bene ti mette a disposizione. Non è così difficile, non è così difficile, perché credo che la moda sia innanzitutto riconoscimento, non maschera, non qualcosa che ti metti per assomigliare a qualcun altro. Nel momento in cui capisci che scegli quello che ti piace perché ti riconosci in quello che ti piace, credo che la moda ti insegni a fare un percorso di racconto di te. Sembra teorico, ma permettimi di dire che non lo è. 5 anni fa, e poi mi interrompo e preferisco sentire le tue domande, 5 anni fa mi sono inventato una disciplina che adesso insegno alla facoltà di Bologna, che è l'autobiografia della moda. Bello! Che è proprio un po' questo. Io detesto l'espressione fashion victim, perché ancora una volta rende le donne vittime di qualcosa, in questo caso della moda, ma siamo stati per anni vittime di qualunque cosa. No, la moda è uno strumento che hai per raccontarti. Più che mai in questo periodo c'è davvero l'imbarazzo della scelta, e davvero sono gli stilisti in prima battuta che dicono va di moda tutto. E quindi scegli quello che il ti tuo piace. Linguaggio. Però per scegliere un linguaggio bisogna avere anche delle direzioni. C'è qualcuno che si sente a proprio agio in tailleur pantalone quando va in ufficio, e c'è la trentenne che si sente a suo agio con la gonnellona e il look gypsy. C'è qualcosa che possiamo dire per dare un bilanciamento? Com'è che non ci si veste in ufficio? Quale che sia l'ufficio, a meno che tu non lavori per John Galliano, ma non tutte lavorano nel mondo della moda, no? Anzi. Io credo che l'importante è la coerenza. Anche la coerenza del look. Spesso quando una persona ti sembra mal vestita, è perché c'è qualcosa che non sta bene nell'insieme. Magari troppe collane, troppa bigiotteria. Oppure banalmente, ne faccio una questione di personalità anche. Una persona molto timida, è inutile che si carichi di colori sfavillanti, meravigliosi, ma che poi non riesce, per esempio, a portare con il portamento corretto in giro. Io credo davvero che riportare un po' più a sé la moda, essendoci così tanti linguaggi e essendoci così tante direttive a cui ci si può ispirare, perché appunto quello che in fondo fanno i giornali come Autospendite, come altri egregissimi giornali, non è nient'altro che prendere nella messa infinita di sollecitazioni che abbiamo, dove si resta anche confusi, perché appunto c'è cioè, creare dei look che sono un po' dei look guida. Perché si dice che le milanesi sono le più eleganti? Perché si vestono sempre di nero, e così col nero e col tacco basso non sbagli mai? No. No, io direi che, guarda, una tu vesti sempre di bianco e nero, per esempio. Io vesto sempre di bianco e nero, però il bianco, perché tu sai che Coco Chanel diceva che dopo i 40 un tocco di bianco è indispensabile, e quindi io ho preso questa legge, l'ho presa. No, in realtà è perché adoro il bianco e nero. Non vestono più solo di nero, viva Dio, le milanesi. Il nero è facile, sicuramente. Il nero aiuta, il nero sfila, il nero ha tante però qualità. Però dopo 20 anni uno si è anche stufato, no? ci si può anche divertire, tant'è vero che una delle firme di Autospendit, che Gaia Servadio, che vive a Londra, che è scrittrice, che si diverte con la moda ma non è specifica di moda, dice no, basta col nero, io adoro il colore, e propone invece una carrellata di colori e di abiti arcobaleno che si può usare a qualsiasi età. La copertina di Autospendit ha una splendida modella coloratissima tutta vestita Chanel. Ma quando si sbaglia col colore, con l'eccesso di colore, come si mescola un colore? Guarda, la copertina appunto che annunciamo, perché noi saremo in edicola il prossimo venerdì, è veramente un esempio di come si può avere addosso colori apparentemente non conformi e non ed estranei fra di loro tutti contemporaneamente, ed è proprio un gioco di pesi, di equilibri, di dosaggi. Sì, ma lì bisogna mettersi a studiare. Stiamo parlando magari a donne che hanno un lavoro, una famiglia, non possono stare lì a dire io mi metto adesso il quadratino e il fiorellino e faccio un mix. Io per esempio non ci provo nemmeno. Allora regalaci in conclusione il tuo look perfetto per l'ufficio, quello che si deve avere in un guardaroba in modo che si va tranquilli e si è a proprio agio, ma non banali. Allora io ti deluderò e dirò che il look per l'ufficio deve essere un look funzionale. Bisogna andare in ufficio mettendosi in condizione di lavorare bene e serenamente, quindi è troppo tutto quello che ti impedisce banalmente di essere veloce, di muoversi con una facilità. Una giacca troppo stretta, una gonna troppo corta, un tacco troppo esagerato. Se non sei brava a camminare sui tacchi, se cammini sui tacchi sul tacco 12 tutti i giorni, benissimo invece il tacco 12. E la non banalità io credo sia data da un tocco superfluo, quale che sia. Secondo me aggiungere una cosa superflua al look è quel di più, è quel lusso che ci si può concedere ogni giorno. Una sciarpa. Una sciarpa, un tocco di rossetto magari diverso e anche la voglia ogni tanto di cambiare un po'. Ecco, aggiungere ogni giorno, magari ci si veste più o meno sempre col tailleur, la giacca, insomma in maniera a seconda dell'ufficio in cui si sta più o meno rigorosa, ma magari aggiungere un piccolo dettaglio che ogni giorno fa la differenza. Quel piccolo dettaglio secondo me è anche il modo di fare una strizzata d'occhio e di divertirsi con la moda, non solo prenderla come un dovere. Se dobbiamo far diventare anche la moda un dovere, e poi no, è una cosa è che dovrebbe essere un piacere dai 6 ai 99 anni, anche di più forse, no? Da bambine si gioca con la moda e ci si inventa, no? Gli abiti, ecco, secondo me ci si può concedere anche un po' di inventiva. E poi viva Dio, se si sbaglia un abbinamento, e poi solo un abbinamento sbagliato, l'indomani si può cambiare. Sì, non muore nessuno. Grazie a Nicoletta Polla Mattiot, che ha un doppio cognome complicatissimo, direttore di How to Spend It, e grazie per essere stati con noi questa domenica. Grazie a te Maria e agli ascoltatori. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, e questo, come sempre, è il momento della domanda della settimana. Anche questa settimana abbiamo un problema. Voi direte, non sarà un problemone, però è di quei problemi che magari rendono più o meno sicura una giornata. La lettera di oggi è di Elisabetta. Mi scuso sin d'ora se questa mail vi potrà sembrare frivola, ma il tema mi sta molto a cuore. Ho 43 anni e lavoro in un ministero a Roma. La mia squadra è composta prevalentemente da uomini, ma ci sono anche alcune colleghe, e sono proprio loro la ragione che mi spinge a scrivervi. Quando fissiamo delle riunioni anche con interlocutori istituzionali, ho notato che le mie colleghe un po' più giovani di me si vestono come se dovessero uscire per una serata in discoteca: scolli profondi, gonne corte, d'estate addirittura le spalle scoperte. Secondo me è una maniera inadeguata, ma qualcuno al quale l'ho fatto notare mi ha dato della bacchettona. Io credo che sul luogo di lavoro bisognerebbe adottare un abbigliamento adeguato alle circostanze. Sbaglio? Elisabetta. Elisabetta, anch'io lo credo, ma magari sbagliamo in due. Allora meglio chiedere a due esperti, veramente esperti. A Ermanno Scervino, stilista, fondatore insieme a Tony Scervino dell'omonima Maison di Moda, che è celebre e amatissima in tutto il mondo. Buona domenica, Ermanno. Ecco, buongiorno. E a Carla Gozzi, style coach. Buona domenica. Buongiorno, buona domenica a tutti. Allora, vorrei cominciare da Carla. Esagera la nostra ascoltatrice o ha ragione lei che in una riunione al ministero con la scollatura profonda e la minigonna non è propriamente appropriato? Ma no, direi, cara Maria, che l'ascoltatrice proprio non esagera, anzi ce ne fossero di donne che ragionano così, insomma per tutto c'è il dress code, c'è un look, no? Se siamo in una, come dire, in un meeting istituzionale è chiaro che diciamo l'immagine è molto importante, quindi comunichiamo attraverso l'immagine noi stessi, quindi la nostra professionalità non è il luogo idoneo per mettere tutto, come dire, al mercato generale, no? Quindi far vedere le proprie grazie, direi che non è, diciamo, non è consono, non è l'ambiente ideale. Ecco, la moda di Ermanno Scervino è fresca, sensuale e è molto femminile. Ermanno Scervino veste anche tra le donne più belle e anche sexy. Magari lui non la pensa come Carla. Che cosa suggerirebbe Ermanno a una signora come la 43enne che ci scrive, che lavora in un ministero e ha incontri istituzionali? Come si dovrebbero vestire lei e le sue colleghe? Beh, consone al proprio lavoro. Io credo che ognuna debba... Allora, la prima cosa per chi lavora è l'intelligenza, e il savoir-faire, e il talento che deve uscire. Poi, se anche c'è della malizia, io non mi scandalizzo, l'importante è che tutto venga fatto con estrema eleganza. Si può fare tutto, ma con eleganza, ecco. Per esempio, non si deve sopprimere la propria personalità, però consoni al proprio ruolo, sì. Qualcuno per esempio nota sempre che Agnese Renzi, la moglie del premier che veste sempre Scervino, talvolta osa il pizzo, un colore rosso, e sono convinta che dietro queste sue scelte ci sia lo zampino proprio di Ermanno, perché si può essere first lady ma anche femminili. Sì, una first lady ha tutt'altro in una presenza molto diversa dai colleghi di lavoro. C'è il galateo, ci sono delle cose da rispettare. La first lady è la moglie di un presidente e di conseguenza di tutti gli italiani, e deve essere molto rispettosa. Agnese è una donna di testa elegante e modesta, di conseguenza non esagera mai, ha un bellissimo fisico. L'abbiamo visto molto risaltare l'estate scorsa con un bikini bianco, appunto Scervino, certo, che era su tutti i giornali, infatti. Sì, è vero, però è anche stata molto elegante alla Scala, secondo me, non perché l'abito fosse mio, ma era una del no, è stata consone assolutamente al ruolo di First Lady. Ecco, lei è molto, mi piace molto come donna. Carla Gozzi, ci sono degli errori banali che si fanno perché semplicemente uno non ci pensa quando si va a un colloquio di lavoro? Penso soprattutto alle giovani, alle ragazze che si presentano magari insicure su come vestirsi e scelgono il total black, oppure si vestono in modo inappropriato. Diamo qualche consiglio pratico. Sì, allora direi che nel 2016 il look da colloquio di lavoro si è molto evoluto, nel senso che di base ovviamente c'è l'abbigliamento che deve essere rispettoso dell'altro, quindi dell'interlocutore, no? In questo caso, quindi diciamo l'ABC ci deve essere, quindi non scolli generosi, per esempio evitare profumi troppo invadenti perché diventano fastidiosi, evitare per esempio colori troppo cupi, evitare gioielli troppo rumorosi perché magari quando noi parliamo, no, muoviamo le mani, quindi questo può infastidire il nostro interlocutore. Queste sono le cose di base, però nel 2016 il look del colloquio cos'è che deve dimostrare, deve raccontare? Deve raccontare la nostra personalità, e quindi è qui la vera sfida, cioè rimanere, diciamo, con un abbigliamento, scegliere un abbigliamento consono al momento, ma ma anche far trasparire chi siamo veramente, le nostre passioni, il nostro talento, perché l'interlocutore invece proprio deve scoprire dove potrebbe cogliere in una nostra caratteristica veramente l'aspetto interessante per poi eventualmente proporci una candidatura. Quindi questo è molto importante e non è facile da farsi, perché evidentemente rimanere nelle regole e però utilizzare, non so, piccoli escamotage come l'accessorio, il colore, il piccolo tocco, un gioiello particolare che parla di noi, in effetti può fare tantissimo. Però mi chiedo, Ermanno Scervino, quando lei fa un'assunzione, e nel vostro mondo immagino si guardi anche allo stile e alla creatività di chi si presenta, che chi non assumerebbe mai perché non la convince come vestito, o invece il vestito non conta? Allora, la prima cosa che conta è il talento di chi si presenta, però l'eleganza, il saper mettere, il saper valorizzarsi per poi valorizzare è indubbiamente, lo considero un valore aggiunto. Beh, nel vostro settore tanto più, ma non solo nel vostro settore. Manco. Ma no, non solo nel mio settore. Io credo che la grazia, il bon ton, il sapersi muovere in maniera contemporanea, non è detto che devono essere, no, Sant'Ereldina il look per potersi piacere. Se una persona ha delle belle gambe e ama avere dei tacchi, perché no, se accentuano il tuo fascino. L'importante è quanto tu lo calibri, no? La bellezza è un fatto anche di testa, non è solo... Ermanno, faccio io... L'abito, trovo che l'abito faccia il monaco, ecco. L'abito però fa il monaco. Ci deve essere anche il monaco, altrimenti non vale nulla. Non vale nulla. Esatto. Ma se uno si presenta come pare essere di tendenza adesso, si presenta da lei per proporre appunto una collaborazione e veste in gonna, essendo un maschio. Adesso pare che i giovani maschi siano affascinati dalla gonna. Lei lo prende come un, come dire, un fashion victim, oppure così si incuriosisce e lo guarda senza preconcetti? E mi incuriosisce, come mi incuriosisce una scollatura eccessiva o dei tacchi alti, non so, non mi scandalizza niente, sinceramente. Però l'importante è lavorare per un proprio target. Il mio target, ma lo dico senza pregiudizi, non è l'uomo con la sottana. Ecco, sì, infatti. Ecco. Ma non è che mi scandalizza. Se uno ha 20 anni, fa una moda per 20 anni e si appresta verso l'industria, non verso lo stilista, è perché no, apre, no, un mondo... È un po' rivoluzionario, però insomma, un attimo, preferisco una donna che attinge al guardaroba dell'uomo che non un uomo che attinge al guardaroba della donna. Questo mi pare un punto di vista molto preciso. In chiusura, Carla, che cos'è che bisogna avere nell'armadio? Che non si può non avere, è una domanda che si faceva dagli anni 60 in poi, ma io la considero sempre molto utile, rivista e corretta appunto al 2016. I tre capi che a 30, a 40 o a 60 anni bisogna avere, soprattutto appunto se si lavora e quindi se si hanno occasioni di incontri professionali. Allora, veniamo all'accessorio, perché l'accessorio diciamo che è un po' intemporale. Beh, sicuramente la décolleté, quindi la scarpa décolleté, che anche se ha degli alti e bassi nei trend nazionali e internazionali, però rimane sempre una scarpa elegante che si presta a diverse mise. Tra l'altro è l'unica scarpa, l'unica calzatura che slancia moltissimo la figura, quindi anche le gambe, per cui quello è un must have, effettivamente non deve mancare. Poi, secondo, l'accessorio, per esempio il gioiello che ovviamente deve essere un gioiello che illumina, quindi ovviamente io penso ai diamanti, alle luci, tutto questo, diciamo illuminare il viso, quindi far sì che il nostro incarnato anche ne giovi, quindi secondo l'accessorio. Terzo, non deve mai mancare, non è un accessorio, è parte di noi, è la seduzione sex appeal, quindi il capire come effettivamente noi possiamo essere al meglio e valorizzate, quindi utilizzare piccoli strumenti che ci dà la moda per essere veramente femminili per quanto riguarda le ragazze ovviamente. Un tocco di femminilità con la luce, dice Carla. Ma per chiudere, Ermanno, nelle sfilate che si sono susseguite in questa settimana della moda, se vogliamo dare due flash alle ascoltatrici, che cosa, in sintesi, che cosa segnalare a chi ci segue? Di positivo? Sì, un colore che segnerà le prossime collezioni, una tendenza che segnerà le prossime collezioni. Beh, io credo. Allora, la prima cosa che si deve mettere è quello che dona, e non è un obbligo indossare quello che va di moda. La prima cosa è la bellezza. Credo, io lavoro con questo concetto, perciò mi sento di rispondere che i colori che devono star bene a chi li indossa e che età ha, cioè ci si deve vestire in armonia, non è così importante essere l'ultimo, no? Sì. Mettere l'importante è la bellezza, poi è il modernismo, è quello che tu esprimi, la contemporaneità. Mi piace molto una persona che, pur essendo sobria, esprima quanto sia moderna, e l'abito serve per compiere, per dare questo messaggio di attualità, sì, di attualità. Mi piace molto questo. Poi le guardaroba, noi sfidiamo l'inverno, ma vogliamo parlare dell'inverno o di quest'estate? Parliamo di quest'estate, parliamo di quello che si va a scegliere per la prossima primavera estate. Quello che già nei negozi, nelle grandi, nei showroom, nei grandi department store. Sì, certo. Beh, le camicie sono qualche cosa che amo, e che i due pezzi, non necessariamente avere l'abito, però la tendenza di quest'estate di portare gonna e camicetta mi piace moltissimo. Ecco, tutto deve segnare la silhouette, tutto deve abbellire. Io lavoro con questo concetto, perciò mi piacciono due pe. Mi piacciono tante cose, mi piace il bianco, ma secondo dove vai, a secondo quello che devi fare, devi saper dosare questo concetto. Quindi ecco. una gonna e una camicetta invece del solito tailleur da lavoro. Ma così ci toccherà stare a dieta però, Ermanno. Grazie. Non è male se è un aiuto, no? Non è male per niente. Grazie Ermanno Cervino, grazie. E grazie a Carla Gozzi, grazie, buona domenica. Grazie. Grazie, buona domenica. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Nessuna è perfetta. Allora, bentornati all'ultima parte di Nessuna è perfetta. Vi ricordo che potete scrivere sempre alla nostra mail nessunaeperfetta@radio24.it o commentare i consigli che avete ascoltato da Ermanno Cervino, da Carla Gozzi e dai nostri ospiti di oggi con la nostra pagina Facebook, o scrivere su Twitter usando l'hashtag Nessuna è perfetta. È il momento della nostra coach. Che ne pensa la nostra coach Maria Serena Ciambellotti del rapporto tra abito e efficacia della presentazione, magari a un nuovo colloquio di lavoro. Diceva prima Ermanno Scervino che l'abito fa il monaco, ma poi ci vuole il monaco, cioè ci vuole il contenuto, quello che uno va a offrire, la propria competenza. Ma restando, visto che questa è la domenica dedicata allo stile, restando a come ci si presenta, no? Qual è, secondo la nostra coach, il look più convincente, a seconda di, è chiaro, no? A seconda del contesto, questo lo do per scontato, ma stiamo parlando per esempio di una donna di 30, di 40 anni che affronta un nuovo colloquio per un nuovo lavoro. Come si veste, secondo la nostra coach Maria Serena Ciambellotti? Grazie Maria, intanto buongiorno, buona domenica a tutti. Dunque, per questo tipo di ascoltatrice che ci scrive, comunque per questa fascia di età tra 30 e 40 anni, il rapporto con l'abbigliamento, che è un rapporto così importante, no? In quanto è una forma, la forma di comunicazione non verbale tra le più significative, considerando che la prima impressione che ci facciamo di una persona è proprio nei primi 6-7 secondi, quindi l'abbigliamento ha un ruolo cruciale. La scelta verso la quale mi sento di orientare chi ci ascolta è quella di verso un abbigliamento che innanzitutto faccia sentire bene, e quindi no a scegliere le scarpe nuove col tacco alto se non sono quelle che di solito porto, perché mi faranno sentire in un contesto già di, no, un po' di camminare tensione, un po' in maniera insicura, e già questo poi si traduce in un disagio. Assolutamente, poi la persona già un po' sotto pressione per la situazione del colloquio si presenterebbe, no, con dell'energia rubata dalla sua concentrazione mentale alla... C'è una bellissima scena nel film Joy, un film che spero molte di voi abbiano già visto, se non l'avete visto andatelo a vedere, in cui la protagonista deve convincere i telespettatori che vedranno per la prima volta appunto in una rete commerciale il suo prodotto, un mocio che ha inventato lei per pulire i pavimenti in maniera efficace, e volevano farla vestire con un tailleur sexy, gonna corta come usavano negli anni 80 alle spallone. E lei si rifiuta e dice: no, io sono me stessa con una camicia e un paio di pantaloni. Solo così riesco a essere davvero convincente. Perché travestirsi in maniera diversa da quel che si è lascia nell'interlocutore la percezione di qualcosa di falso, Maria Serena Ciambellotti? E soprattutto fa passare il disagio, quindi l'interlocutore è indeciso se il disagio è perché la persona è poco convinta di quello che sta dicendo, o perché ha la scarpa stretta o la gonna che non è mai abituata a portare, perché abitualmente gira in pantalone. Quindi sicuramente porsi questa domanda: cosa voglio comunicare? E cioè, quindi in questo colloquio, posto che in ogni caso il mio abbigliamento verrà dall'altra persona interpretato, perché è così, siamo, no? Ciascuno di noi legge attraverso dei pregiudizi di cui siamo consapevoli, o anche gli famosi unconscious bias, pregiudizi inconsapevoli che non sappiamo neanche di avere. Legge l'immagine dell'altro nei primissimi secondi in cui lo incontra, la incontra. Quindi decidere qual è l'aspetto che voglio che passi. L'aspetto che voglio che passi, che naturalmente sia autenticamente collegato a me, perché nel tentativo di dare un'immagine vincente e io magari mi sento totalmente insicura e non pronta per quella posizione, passerà una incoerenza che non farà altro che allontanarmi dall'obiettivo. In una intervista che ho fatto tempo fa a Renzo Rosso per la mia trasmissione, l'intervista su Sky TG24, gli chiesi se avesse un aneddoto che poteva raccontarci di come era stato influenzato in un colloquio di lavoro. E lui mi raccontava che non aveva assunto un bravissimo manager perché alla domanda: ma se io le chiedessi di togliersi quel tatuaggio, questo manager aveva un tatuaggio, lei se lo toglierebbe? Il manager aveva risposto: sì, me lo toglierei. E questo aveva influenzato negativamente Renzo Rosso. Parlo di tatuaggi perché molti, non soltanto trentenni, ormai anche quarantenni, se li sono fatti negli anni, potrebbero avere la tentazione di coprirli andando a un colloquio di lavoro e non sapendo come l'altro possa reagire. Sì, può essere una buona idea, nel senso che non sapendo come l'altro possa interpretarle, questa scelta magari fatta in un momento diverso, no? Da quello in cui... Sì, magari a 15 anni. Ecco, sì. Intanto in generale un consiglio di... potendo scegliere di non fare tatuaggi in zone così visibili anche con un abbigliamento da lavoro. Dopodiché cercare di coprirlo può essere una buona idea, anche perché non venga interpretato come la volontà di lanciare un messaggio a tutti i costi, cioè quindi ti sfido mostrando il mio tatuaggio e quindi dall'altra parte non so come questo possa essere letto. Nel dubbio faccio in modo che o con un braccialetto, con una collana, se ce l'ho in una zona così polsi o collo, sia mascherato e che quindi non sia... Se invece andate a un colloquio di lavoro con Renzo Russo, sapete già che se vi chiede di toglierlo vi sta provocando e dovete rispondere no, non me lo toglierei mai. Grazie. Grazie a Maria Serena Ciambellotti, buona domenica a te, buona domenica a chi ci ha seguito anche in questa domenica dedicata per una volta al look, una volta ci sta.